Sì, è un momento di svolta, io almeno lo spero, ho cercato di dare l'esempio perché ho capito che c'era del timore a infangarsi con la politica, ma la politica, l'impegno politico, la mobilitazione politica prevede anche le candidature, anzi è l'esempio massimo, e quindi so già di 4-5 sardine o comunque figure sardiniche che seguiranno la mia strada e spero che ce ne siano anche altre. Quindi si chiude un cerchio, come ha detto. Diciamo che si apre una nuova fase, continueremo ad essere sardine di prima, lo decideranno anche le sardine, abbiamo comunque un impegno che parte dal più basso, che più basso non si può, semplicemente si apre una fase nuova per scardinare quel preconcetto che tutto ciò che è politica è contaminazione cattiva, invece è contaminazione ottima. Ecco, si spiega un po' questo suo cambio di prospettiva, lei aveva detto che non sarebbe candidato, invece lo fa, oggi ha anche detto che chi si candida non è il leader delle sardine. Ho voluto ripristinare una storia personale che per 2 anni, di cui per 2 anni mi sono privato e mi hanno privato. Io sono una persona che nasce a Bologna, cresce a Bologna, ho fatto tante cose qua, avrei potuto benissimo candidarmi anche senza le sardine, chi mi conosce lo sa, e quindi ho voluto semplicemente dare voce a quella storia che per 2 anni ho messo da parte in favore di una realtà più grande, una comunità più grande che mi chiedeva in qualche modo di investire. Ho dichiarato tante volte che non mi sarei candidato, ma la mia candidatura è una candidatura comunale, a consigliere comunale, quindi in qualche modo cerco di rappresentare il fatto che anche se uno ha avuto una botta di fortuna o di non fortuna, diciamo di merito, ed è balzata agli onori della cronaca nazionale, può comunque partire dal basso, e credo che sia una scelta che non tanti avrebbero fatto. Ecco, qual è il suo apporto che intende dare a Bologna? Cosa manca a questa città? Questa città ha stretto un patto con i cittadini, tra istituzioni e cittadini, amministrazione e cittadini negli ultimi anni, in un disegno voluto anche fortemente da Matteo Lepore, che però è sempre a rischio di sfaldamento, perché quando si coinvolgono i cittadini nella democrazia partecipativa, c'è sempre il rischio che se non c'è seguito alle azioni questa fiducia venga meno. Non ce lo possiamo permettere, proprio perché siamo in un'epoca in cui dobbiamo investire sul protagonismo dei cittadini, per cui bisogna rafforzare il bilancio partecipativo, il disegno delle case di quartiere, aumentare anche, allargarlo al disegno dei giardini di comunità, che è un esperimento che abbiamo provato su Perravone recentemente, e quindi continuare sul coinvolgimento dei cittadini, perché solo così è più facile spiegare ai cittadini che cosa ci aspetta nei prossimi anni, ovvero una sfida grandissima. Secondo lei chi ha appoggiato Isabella Conti alle primarie del centro-sinistra può essere candidato? Ma questa è una decisione che non spetta a me, quindi saranno gli organi del Partito Democratico, degli altri partiti a deciderlo. Io ho perfetta stima con di Isabella Conti, ci conosciamo, parliamo, e credo che abbia dato un segnale nobile alla politica. Fino ad ora a Bologna come è stata governata? Beh, in questi 10 anni io credo molto bene, tutto è migliorabile, ci sono state delle strutture, ne ho parlato nel mio discorso, a livello di turismo, a livello di accessibilità, a livello di partecipazione, a livello di mobilità, e quindi va semplicemente allargato l'orizzonte e la prospettiva di un disegno che già è molto buono, perché in questo momento i dati che ci dicono che Bologna è una città in cui si vive bene, in cui c'è un patrimonio dell'UNESCO riconosciuto, in cui c'è un turismo che aumenta, in cui c'è un benessere fisico, sociale e di sussidiarietà sociale che funziona.